Ad alta voce, Peppe Servillo legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Assorto nelle molteplici minuzie che richiedevano la sua attenzione, Aureliano II non si rese conto che stava diventando vecchio, fino a un pomeriggio in cui si ritrovò a contemplare il crepuscolo prematuro da una sedia a dondolo e a pensare a Petra Cotes senza fremere. Non avrebbe avuto alcun inconveniente a ritornare all'amore insipido di Fernanda, la cui bellezza si era decantata con la maturità. Ma la pioggia lo aveva messo al sicuro da ogni emergenza passionale e gli aveva infuso la serenità spugnosa della inappetenza. Si divertì a pensare alle cose che avrebbe potuto fare in altri tempi con quella pioggia che durava già da quasi un anno. Era stato uno dei primi a portare tettoie di zinco a Macondo, molto prima che la compagnia bananiera le rendesse di moda, solo per lastricarne il tetto della stanza di Petra Cotes e sollazzarsi con l'impressione di intimità profonda che in quell'epoca gli causava il crepitio della pioggia. Ma perfino quei ricordi folli della sua gioventù stravagante lo lasciavano impavido, come se nell'ultima baldoria avesse esaurito le sue quote di salacità e gli fosse rimasto soltanto il premio meraviglioso di poterle ricordare senza né amarezza né pentimenti. Si sarebbe potuto pensare che il diluvio gli aveva dato l'opportunità di sostare per riflettere e che l'affaccendarsi con pinze e oliatori gli avesse risvegliato la nostalgia tardiva delle tante faccende utili che avrebbe potuto fare e che non aveva fatto nella sua vita. Ma nell'una nell'altra cosa erano vere, perché la tentazione di sedentarismo e di domesticità che lo stava aggirando non era frutto della ricapacitazione né rinsavimento. Gli giungeva da molto più lontano, disseppellita dal forcone della pioggia, dai tempi in cui leggeva nella stanza di Melchiades le prodigiose favole delle stuoie volanti e delle balene che si alimentavano di navi con equipaggio e tutto. Fu in quei giorni che per una sbatataggine di Fernanda comparvero sotto il porticato il piccolo Aureliano e suo nonno conobbe il segreto della sua identità. Gli tagliò i capelli, lo vestì, gli insegnò a perdere la paura della gente. E ben presto si vide che era un legittimo Aureliano Buendía, coi suoi zigomi alti, il suo sguardo di stupore e la sua aria di solitudine. Per Fernanda fu un sollievo. Da tempo aveva misurato la grandezza della sua superbia, ma non trovava il modo di rimediarvi, perché più pensava alle soluzioni e meno razionali le sembravano. Se avesse saputo che Aureliano II avrebbe preso le cose come le prese, con una buona compiacenza di nonno, non ci sarebbero stati tanti rigiri e tanti differimenti. Ma fin dall'anno prima lei si sarebbe liberata dalla mortificazione. Per Amanta Ursula, che aveva già cambiato i denti, il nipote fu come un giocattolo irrequieto che la consolò dal tedio della pioggia. Aureliano II si ricordò allora della enciclopedia inglese che nessuno aveva più toccato nell'antica stanza di Meme. Cominciò a mostrare le figure ai bambini, specialmente quelle degli animali, e più tardi le mappe e le fotografie di paesi remoti e di personaggi celebri. Dato che non sapeva l'inglese e che riusciva appena a riconoscere le città più note e i personaggi più comuni, cominciò a inventare nomi e leggende per soddisfare la curiosità insaziabile dei bambini. Fernanda credeva davvero che suo marito aspettasse la fine della pioggia per tornare con la concubina. Durante i primi mesi temette che prima o poi tentasse di introdurlesi nella stanza, costringendola alla vergogna di dovergli confessare la sua incapacità alla riconciliazione, fin dall'epoca della nascita di Amaranta Ursula. Quella era la causa della sua ansiosa corrispondenza coi medici invisibili, interrotta dalle frequenti lacune della posta. Durante i primi mesi, quando si venne a sapere che i treni deragliavano nella tempesta, una lettera dei medici invisibili la informò che le sue lettere cominciavano a non arrivare puntualmente. Più tardi, quando si interruppero i contatti con i suoi corrispondenti ignoti, aveva pensato seriamente di mettersi la maschera di tigre che aveva usato suo marito nel carnevale sanguinoso per andare a farsi visitare con un nome fittizio dai medici della compagnia bananiera. Ma una delle tante persone che passavano spesso dalla casa portando le notizie ingrate del diluvio le aveva detto che la compagnia stava smantellando i suoi dispensari per traslocarli in terre asciutte. Allora perse la speranza. Si rassegnò ad aspettare che finisse la pioggia e che si normalizzasse la posta e nel frattempo calmava le sue sofferenze segrete con espedienti di ispirazione, perché avrebbe preferito morire che mettersi nelle mani dell'unico medico che era rimasto a Macondo, il francese stravagante che si alimentava con erba per gli asini. Si era riavvicinata a Ursula, sperando che la vecchia conoscesse qualche palliativo per le sue sofferenze. Ma la tortuosa abitudine di non dare alle cose il loro nome la indusse a fare dell'anteriore il posteriore e a sostituire il partorito con l'espulso e a cambiare flussi con ardori in modo che tutto fosse meno vergognoso. E perciò Ursula concluse ragionevolmente che i disturbi non erano uterini, ma intestinali, e le consigliò di prendere a digiuno una cartina di calomelano. Se non fosse stato per quella sofferenza, che non avrebbe avuto nulla di pudibondo per chi non fosse stata ammalata anche di pudibondia, e se non fosse stato per la perdita delle lettere, a Fernanda non sarebbe importata la pioggia, perché in fin dei conti tutta la vita era stata per lei come se stesse piovendo. Non modificò gli orari, né rilassò i rituali. Quando ancora il tavolo era sollevato sui mattoni e le sedie collocate sugli assi perché i commensali non si bagnassero i piedi, lei continuava ad apparecchiare con tovaglie di lino e vasellame cinese e ad accendere i candelabri durante la cena, perché riteneva che le calamità non potevano essere prese come pretesto per il rilassamento dei costumi. Nessuno era tornato ad affacciarsi in strada. Se fosse dipeso da Fernanda, non sarebbero tornati a farlo mai più, non solo da quando era cominciato a piovere, ma fin da molto tempo prima, dato che lei era convinta che le porte erano state inventate per chiuderle e che la curiosità per quello che succedeva nella strada era cosa da donnacce. Tuttavia, fu lei la prima ad affacciarsi quando avvisarono che stava passando il funerale del colonnello Gerineldo Marquez, benché quello che vide allora dalla finestra socchiusa la lasciasse in un tale stato di afflizione che per parecchio tempo continuò a pentirsi di quella sua debolezza. Sarebbe stato impossibile concepire un corteo più desolante. La bara era stata messa su una carretta da buoi sulla quale avevano costruito una tettoia di foglie di banano, ma la pressione della pioggia era così intensa e le strade erano così impantanate che a ogni passo le ruote affondavano nel fango e la tettoia era sul punto di disfarsi. I rivoli di acqua triste che cadevano sulla bara inzuppavano a poco la bandiera che vi avevano messo sopra e che era in realtà la bandiera sporca di sangue, di polvere da sparo, ripudiata dai veterani più degni. Sulla bara avevano messo anche la sciabola con le nappine di rame e di seta, la stessa che il colonnello Gerineldo Marquez lasciava sull'appendiabiti del salotto per entrare inerme nella stanza da lavoro di Amaranta. Dietro la carretta, alcuni scalzi e tutti coi pantaloni a mezza gamba diguazzavano nel fango gli ultimi sopravvissuti della capitolazione di Neerlandia, col bastone di carrubbo in una mano e una corona di fiori di carta scoloriti dalla pioggia nell'altra. Comparvero come una visione irreale nella strada che portava ancora il nome del colonnello Aureliano Buendía. E passando tutti guardarono la casa e piegarono verso l'angolo della piazza, dove furono costretti a chiedere aiuto per liberare la carretta impantanata. Ursula si era fatta portare sulla porta da Santa Sofia della Pietà. Seguì con tanta attenzione le peripezie del funerale che nessuno dubitò che lo stava vedendo, soprattutto perché la sua protesa mano di arcangelo annunciatore si muoveva col beccheggio della carretta. «Addio, Gerinaldo, figlio mio!» gridò. «Salutami la mia gente e dille che ci vedremo quando spioverà!» Aureliano II la aiutò a rimettersi a letto e con la sgarbatezza con cui la trattava sempre le chiese che senso aveva quell'addio. «È vero», disse Ursula, «non sto aspettando altro che la pioggia smetta per morire». Lo stato delle strade allarmò Aureliano II. Tardivamente preoccupato per la sorte delle sue bestie, si buttò addosso una tela cerata e andò da Petra Cotes. La trovò nel patio, con l'acqua alla vita, intenta a disincagliare la carogna di un cavallo. Aureliano II la aiutò con un palo e l'enorme corpo tumefatto roteò su se stesso e fu trascinato via dal torrente di fango liquido. Da quando era cominciata la pioggia, Petra Cotes non aveva fatto altro che sgomberare il patio dagli animali morti. Nelle prime settimane aveva mandato dei messaggi ad Aureliano II, invitandolo a prendere dei provvedimenti urgenti, e lui aveva risposto che non c'era fretta, che la situazione non era allarmante, che avrebbero pensato a qualcosa quando fosse spiovuto. Gli mandò a dire che i pascoli si stavano allagando, che le mandrie fuggivano verso le terre alte, dove non c'era da mangiare e che erano alla mercé della tigre e della peste. «Non c'è niente da fare», le rispose Aureliano II. «Ne nasceranno altri quando spioverà». Petra Cotes li aveva visti morire a grappoli e trovava appena il tempo per fare a pezzi quelli che rimanevano impantanati. Vide con un'impotenza assurda come il diluvio andò sterminando senza misericordia una fortuna che un tempo era ritenuta la più grande e solida di Macondo e della quale non restava che la pestilenza. Quando Aureliano II decise di andare a vedere che cosa stava succedendo, trovò soltanto il cadavere del cavallo e una mula squallida tra le macerie della scuderia. Petra Cotes lo vide arrivare senza sorpresa, senza né gioia né risentimento, e si permise appena un sorriso ironico. «Alla buon'ora», disse. Era invecchiata, tutta ossa, e i suoi lanceolati occhi di animale carnivoro si erano fatti tristi e docili a furia di guardare la pioggia. Aureliano II rimase per più di 3 mesi nella sua casa, non perché allora si sentisse meglio lì che in quella della sua famiglia, ma perché egli ci volle tutto quel tempo per prendere la decisione di buttarsi di nuovo addosso il pezzo di tela cerata. «Non c'è fretta», disse, come aveva detto nell'altra casa. «Speriamo che spiova nelle prossime ore». Nel corso della prima settimana si andò abituando allo scempio provocato dal tempo e dalla pioggia nella salute della sua concubina e a poco ricominciò a vederla come era prima, a ricordarsi delle sue intemperanze giubilanti e della fecondità delirante che il suo amore provocava negli animali. E in parte per amore, in parte per interesse, una notte della seconda settimana la svegliò con carezze incalzanti. Petra Cotes non reagì. «Dormi tranquillo», mormorò. non sono più i tempi adatti per fare queste cose. Aureliano II vide se stesso negli specchi del soffitto. Vide la spina dorsale di Petra Cotes, come una filza di rocchetti infilati in un fascio di nervi appassiti, e capì che la donna aveva ragione. Non tanto per i tempi, quanto perché loro stessi non erano più adatti per fare quelle cose. Aureliano II tornò nella casa coi suoi bauli, convinto che non soltanto Ursula, ma anche tutti gli abitanti di Macondo stavano aspettando che spiovesse per morire. Li aveva visti passando, seduti nei salotti, con lo sguardo assorto e le braccia incrociate, intenti a sentir trascorrere un tempo intero, un tempo non domato, perché era inutile dividerlo in mesi e in anni e i giorni in ore, se non si poteva fare altro che contemplare la pioggia. I bambini accolsero con grande gioia Aureliano II, che tornò a suonare per loro la fisarmonica asmatica. Ma il concerto non li divertì tanto quanto le riunioni enciclopediche, di modo che ripresero le sedute nella stanza di Meme, dove la fantasia di Aureliano II trasformò il dirigibile in un elefante volante che cercava un posto per dormire tra le nubi. Una volta vide la fotografia di un uomo a cavallo che, nonostante la sua bardatura esotica, conservava un aspetto familiare e, dopo averlo esaminato a lungo, giunse alla conclusione che era il ritratto del colonnello Aureliano Buendía. Lo fece vedere a Fernanda e anche lei ammise la rassomiglianza del cavaliere non soltanto col colonnello, ma con tutti i membri della famiglia, anche se in realtà si trattava di un guerriero tartaro. Così fece passare il tempo, tra il colosso di Rodi e gli incantatori di serpenti, finché sua moglie gli annunciò che restavano soltanto 6 chili di carne salata e un sacco di riso nel granaio. «E allora che cosa vuoi che faccia?» chiese lui. «Io non lo so», rispose Fernanda. «Questa è una faccenda di uomini». «Bene», disse Aureliano II, «faremo qualcosa quando spioverà». Andò avanti in quel modo, più assorto nell'enciclopedia che nel problema domestico, anche quando dovette accontentarsi di uno straccio di carne e di un pugno di riso per il pranzo. «Ora non si può far nulla», diceva. «Non può piovere per tutta la vita». E quanto più indifferente era alle necessità del granaio, tanto più appassionata si andava facendo l'indignazione di Fernanda, finché le sue proteste occasionali, i suoi sfoghi poco frequenti, traboccarono in un torrente incontenibile, sfrenato, che cominciò una mattina, come il monotono bordone di una chitarra, e che a mano che si svolgeva la giornata andò salendo di tono, sempre più ricco, sempre più grandioso. a very long distance, out of his way to come back, a short distance correctly.